24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi l'economia, con l'apertura della cancelliera tedesca Angela Merkel sul fondo salva stati e le parole del presidente della BCE Mario Draghi, sempre in tema economico. Intanto la Commissione europea incoraggia Italia e Spagna sulla strada del risanamento dei conti pubblici. Italia in difficoltà a livello europeo su brevetti e competenze informatiche della forza lavoro. Oggi vi racconteremo la scomparsa di un grande scrittore europeo, Antonio Tabucchi, e vi porteremo a Londra per l'anteprima di Save Titanic. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato la disponibilità di Berlino a sfruttare una momentanea coesistenza dei due sistemi anticrisi europei, il temporaneo IFSF e il permanente futuro ISM, per potenziare le capacità teoriche di difesa dell'Unione. Quello che diciamo è che l'ISM deve essere attestato stabilmente a 500 miliardi di euro, ma finché abbiamo 500 miliardi effettivamente disponibili, potremmo immaginare di lasciare in funzione i programmi già operativi, ha detto la Merkel durante una conferenza stampa a Berlino. La Merkel ha aggiunto: questi programmi rappresentano circa 200 miliardi. E ieri a Bruxelles il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, ha ribadito la posizione italiana favorevole a un rafforzamento della capacità di fuoco dei due fondi di salvataggio dell'Eurozona. Ci sono segnali di stabilizzazione sia sul mercato finanziario sia nell'attività economica, sebbene a un livello basso. Così il presidente della BCE Mario Draghi ieri a Berlino. Dobbiamo proseguire con le misure nei prossimi mesi e anni con grande diligenza per continuare nel percorso di stabilizzazione, ha aggiunto Draghi. Intanto il vicepresidente della Commissione europea Olli Rehn ha espresso fiducia sulla determinazione delle autorità sia italiane che spagnole nell'accentrare gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, ad affermarlo il portavoce di Rehn Amadeu Altafaj Tardio. Secondo Bruxelles, la riforma del mercato del lavoro approntata dal governo italiano affronta le vere sfide del paese. L'obiettivo che condividiamo è rendere il mercato dell'impiego più inclusivo, in particolare nei riguardi dei giovani e dei disoccupati di lungo termine, e anche affrontare le problematiche regionali, così la Commissione europea. Il governo ungherese non esclude la possibilità di ottenere un finanziamento internazionale senza un accordo preventivo con l'FMI. Lo ha affermato il direttore del Centro di Gestione dei Debiti, István Törökszky, parlando della possibilità di emettere un'emissione in dollari. Ora una curiosità di stampo economico. In tempi di crisi come questi, specialmente in Grecia, può sembrare davvero incredibile apprendere che sono scomparsi la bellezza di 240 milioni di euro della vecchia valuta locale, la dracma. A tanto equivalgono gli 82 miliardi di dracme che non sono mai state cambiate dalla data dell'ingresso del paese nell'eurozona, a rivelarlo un'indagine del quotidiano Katimerini. L'apertura della cancelliera Merkel all'ampliamento del fondo salva stati e segnali incoraggianti sul lavoro americano, annunciati ieri dal numero uno della Fed Ben Bernanke, hanno dato fiducia ai listini europei, che hanno chiuso positivi. Francoforte, a più 1,2%, è stata la migliore tra le piazze principali, dove sono prevalsi gli acquisti su auto, energia e media. A Milano il FTSE MIB ha chiuso a più 0,81%. 8 paesi europei chiedono di sospendere il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, istituito dalla Commissione nel dicembre 2006, per aiutare quei lavoratori che perdono l'impiego in seguito alle ristrutturazioni imposte dalla globalizzazione. Il fondo aiuta questi lavoratori a riqualificarsi e a trovare un nuovo impiego. Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno fatto mettere a verbale la loro richiesta nel Consiglio Affari Generali ieri a Bruxelles. Il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos si è detto disponibile a riaprire il dossier sulla liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, che ha suscitato la protesta di 15 stati membri europei, inclusa l'Italia. Soddisfazione per la decisione di Ciolos è stata espressa dal governo di Roma. Almeno dal punto di vista dei brevetti, la crisi sembra essere passata in Europa. Secondo il rapporto dello European Patent Office, lo scorso anno le richieste hanno raggiunto una cifra record, anche se il trend non ha riguardato l'Italia, che invece ha prodotto meno domande. I numeri del documento parlano di 244.437 richieste, con un incremento rispetto al 2010 del 3,7%. Crescono anche le richieste approvate. Il commissario europeo alle politiche regionali, Johannes Hahn, ha accolto positivamente la nascita dell'Euroregione Friuli Venezia Giulia Veneto e Carinzia, che grazie al nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, potrà promuovere meglio lo sviluppo e contare di più anche a Bruxelles. Ad affermarlo il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. l'euroburocrazia appare sempre meno attraente. La Commissione europea è infatti in crescente difficoltà nel reperire alte professionalità, soprattutto nei settori informatico e giuridico. A lanciare l'allarme è stato il vicepresidente della Commissione, Maros Šefčovič. La ragione principale, secondo Šefčovič, è la perdita di incentivo economico che si registra per le professionalità provenienti da alcuni Paesi membri, quali la Gran Bretagna. Poco più di un italiano su 100 si laurea in scienze informatiche. Secondo Eurostat esattamente l'1,3% nel 2009. Peggio di noi in Europa solo la Romania, 0,9%, mentre la media nell'Unione 27 è del 3,4%, comunque in forte contrazione rispetto al 4% del 2005. I dati sono stati resi noti in coincidenza con la settimana del eSkills, le capacità elettroniche, che si celebra fino al 30 marzo. La casa automobilistica tedesca Audi ha deciso di dotare le macchine in vendita sul mercato indiano di clacson potenziati, adatti ai livelli di inquinamento acustico indiani. Se utilizzata una tromba europea, spiega l'Audi, si romperebbe nel giro di un paio di settimane in India. A Mumbai si preme sul clacson tante volte in un solo giorno quante in Germania in un anno intero. Grave lutto nel mondo della cultura continentale. A lasciarci un cittadino europeo che ha legato la sua esperienza umana e professionale alla capitale del Portogallo, Lisbona. Giovedì, in quella Lisbona che tanto amava, si svolgeranno i funerali di Antonio Tabucchi, morto domenica a 68 anni. Tabucchi era considerato uno dei massimi conoscitori dell'opera dello scrittore lusitano Fernando Pessoa. Fra i suoi libri più famosi c'è Sostiene Pereira, da cui era stato tratto un film nel 1995 per la regia di Roberto Faenza con Marcello Mastroianni. Il ricordo del regista al microfono di Paolo Panceri. La cosa che ricordo di più è che si batté prima di tutti perché io prendessi Mastroianni a fare il film, quindi diciamo che il merito è stato soprattutto suo. Poi abbiamo lavorato insieme a sviluppare la sceneggiatura e siccome il romanzo era già molto cinematografico, non è stata un'impresa ardua, abbiamo semplicemente lavorato così a ricreare i dialoghi. Però io la cosa che ricordo di più di Antonio è proprio il rigore morale, la dirittura etica che soprattutto negli ultimi tempi lo ha segnato, e anche questa rabbia che aveva nei confronti dell'Italia, per cui negli ultimi anni praticamente non viveva più qui e si sentiva un po' straniero in patria. Io penso che la perdita di Antonio sia un po' come la perdita di uno dei grandi del nostro tempo, non so, mi viene in mente Pasolini, mi domando se c'è qualcuno che colmerà questo vuoto, io non lo vedo ma spero tanto di sì. Devo dire che Antonio negli ultimi tempi ha avuto molti problemi nei confronti del nostro paese, ha ricevuto un ostracismo spaventoso, molti dei giornali più importanti italiani non pubblicavano più i suoi articoli, se doveva scrivere qualcosa sull'Italia lo scriveva su Le Monde forse, il che vuol dire che non credo che siano tempi facili per scrittori, diciamo così, tra virgolette civili, soprattutto per scrittori così intransigenti come era Tabucchi. Non era un uomo che anche nelle critiche che volgeva per esempio spesso al nostro Presidente della Repubblica non gli ha certo portato i favori del ben pensanti del paese. Il mondo del cinema e i fan attendono la prima di Titanic 3D alla Royal Albert Hall di Londra. Il film di James Cameron, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, riconvertito in formato tridimensionale, uscirà il 6 aprile, a pochi giorni dal centenario del naufragio. E a Londra è stata presentata l'anteprima del documentario Save Titanic, che andrà in onda sul National Geographic Channel l'8 aprile. Il documentario racconta i lavori dell'esploratore Robert Ballard, che ritrovò il relitto e che ora afferma che i resti del Titanic sono in pericolo. There's no guard on the door. It's like the Vatican with the... Non c'è nessuno che faccia la guardia. È come se in Vaticano si lasciassero aperte le porte della Cappella Sistina e di notte chiunque potesse entrare e fare quello che vuole. Sarebbe possibile? No. Penso sia importante far capire che il relitto è in pericolo, che è stato danneggiato dai visitatori, cosa che è resa molto, molto più facile dalla tecnologia. Così speriamo che il mondo possa supportare l'idea di un trattato delle Nazioni Unite, firmato anche dall'Italia. Voi siete consapevoli del patrimonio di antichità delle vostre coste e quindi potete capire. Se non possiamo proteggere il Titanic, non possiamo proteggere le antichità. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Peter Bescapè per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.